foglio di carta lo vedi il sole giallo. Ma se piove due segni di tiro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde se vedi un punto lontano. Non si scappa o il buon Dio è un gabbiano e va verso il mare a volare, ed il mare è tutto blu. E una nave a navigare ha una vela non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove gli pare, non dove vuoi tu. Ed il cielo sta a guardare, ed il cielo è sempre blu. C'è un aereo lassù in alto e l'aereo scende giù. C'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi chi viaggia in treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. E il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà. Va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci viene incontro non fa rumore, non chiede amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare in città. Noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo su più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di tiro ti danno un ombrello, che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo, che scolorirà.